ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Dodicesima puntata. Non è cosa che mi riguardi, d'accordo, ma mi rendo conto che all'istituto non entrano nuovi allievi. Potrebbe mai darsi che la fama di educatore di cui il signor Beniamenta gode o ha goduto nel mondo circostante sia in declino o addirittura in via di scomparire? Sarebbe doloroso, ma forse non è che un effetto della mia sensibilità esacerbata. Sono diventato un po' nervoso qui dentro, se si può chiamare così, una certa tensione e insieme un appannamento della mia capacità di osservazione. Qui tutto è così leggero, sembra di vivere di sola aria, non di posare i piedi per terra. E poi codesto continuo autocontrollo e consapevolezza, probabilmente anch'esso vi contribuisce, può darsi benissimo, si aspetta sempre qualcosa e così si finisce col logorarsi e sempre ci imponiamo il severo divieto di ascoltare e di aspettare, perché non è consentito. Si sa, anche questo consuma le forze. Sovente la signorina se ne sta alla finestra e guarda a lungo fuori come se già vivesse altrove. Ecco. Appunto questo rende non del tutto sana e naturale l'aria che qui si respira. Il fatto che tutti noi, i superiori come la scolaresca, per così dire, viviamo già altrove. Come se tra queste mura il nostro respirare, mangiare, dormire, essere svegli, dare o ascoltare lezioni non fosse più che provvisorio. Qualcosa come il batter d'ali di un'implacabile energia motrice fa udire qui dentro il suo rimbombo. Stiamo tutti origliando verso quello che sta per succedere, verso un ipotetico dopo? Può darsi anche questo. E cosa avverrà quando tutti noi allievi ce ne saremo andati e non ne verranno più altri? Come andrà a finire? Sarà la povertà, l'abbandono per i beniamenta? Basta che mi figuri una cosa simile per sentirmi come ammalato. No, mai, mai, questo no, questo non potrà essere. Eppure dovrà essere. Davvero dovrà? Essere vigorosi vuol dire non stare tanto a riflettere, ma affrontare subito, tranquillamente, il da farsi. Vuol dire inzupparsi sotto gli acquazzoni della fatica, indurirsi e rafforzarsi grazie agli urti e alle frizioni imposti dalla necessità. Odio questo frasario saccente. Avevo in mente qualcosa di tutto diverso. Ah, ecco, ci sono. Si tratta del signor Beniamenta. Sono tornato nel suo ufficio. Continuo a punzecchiarlo per via dell'impiego da trovare presto. Perciò gli ho domandato anche stavolta a che punto era la faccenda, se potevo aspettarmi qualcosa, eccetera. Lui stava per andare su tutte le furie. Oh, è sempre lì lì per infuriarsi, ora come prima. E io sono molto audace nel provocarlo. Gli rivolsi la mia domanda a voce alta, in modo ruvido e sfrontato. Il direttore mi parve imbarazzato. Cominciò perfino a grattarsi dietro quelle sue grandi orecchie. Beninteso, non ha quel che si suol dire delle grandi orecchie, anzi, le sue orecchie in proporzione non sono affatto troppo grandi. Ma tutto è grande in quell'uomo e di conseguenza anche le orecchie. Finalmente venne verso di me, mi sorrise con strana benevolenza e disse: «Vuoi andartene a lavorare fuori, Jacob? Senti me, resta ancora qui. Tu e quelli come te si trovano bene qui dentro. O forse no? Indugia ancora un poco. Anzi, vorrei consigliartelo, diventa un po' scansafatiche, un po' smemorato, un po' tardo. Perché vedi, quelle che si chiamano imperfezioni hanno grande, grandissimo significato nella vita dell'uomo. Sono importanti, starei per dire che sono necessarie. se non ci fossero le imperfezioni e i difetti, il mondo perderebbe di fascino, di calore, di ricchezza. La metà del mondo, e forse in fondo la metà più bella, perirebbe insieme alle indolenze e alle debolezze. No, sii pigro. Scusa, capiscimi bene. Sii quello che sei e che sei diventato qui, ma per favore recita un po' la parte dell'accidioso. Vuoi? Dici di sì? Sarei tanto contento di vedere che ti abbandoni un po' alle fantasticherie. Lascia pendere il capo, sii pensieroso, abbi lo sguardo afflitto, capisci? Perché tu per me mostri quasi troppa volontà, troppo carattere. E sei orgoglioso, Jacob. Quali sono di preciso i tuoi progetti? Pensi che nel mondo potrai raggiungere, conquistare la grandezza o che lo dovrai? Hai serie intenzioni in vista di qualcosa di straordinario? Mi fai quasi quest'impressione, purtroppo, un'impressione un po' di violenza. O forse vuoi forse quasi per sfida rimanere piccino piccino? Anche questo posso presumere di te. Sei un po' troppo festoso di natura, troppo impetuoso, troppo incline al trionfo. Ma tutto ciò è assolutamente indifferente. L'importante, Jacob, è che tu rimanga. Non ti darò un posto. Non ti procurerò niente di simile per lungo tempo ancora. Sai, c'è in me il bisogno di averti ancora qui. Oh ragazzo, appena ti possiedo vuoi già scappare, neanche per sogno. Annoiati come meglio puoi qui nell'istituto. Mio piccolo conquistatore, sarà nel mondo. Quando sarai uscito nel mondo, quando avrai una professione e delle ambizioni e delle lotte da sostenere, sarà allora che ti si spalancheranno dinanzi oceani di noia, di squallore, di solitudine. Rimani qui, nutriti ancora per un po' di desideri. Non puoi credere che felicità, che grandezza ci sia nell'aspirazione, insomma, nell'attesa. Aspetta dunque, sii paziente, lascia agire questo rovello dentro di te, ma non troppo. Ascolta, la tua partenza mi darebbe dolore, mi arrecherebbe una ferita che nulla potrebbe guarire, sarebbe quasi come uccidermi. Uccidermi. Ridi di questa mia parola, te ne prego. Ridi di gusto, fatti beffe di me, spudoratamente, Jacob, te lo permetto. Ma dimmi, che cosa mai potrò ancora permetterti o proibirti in avvenire, dopo che ti ho dato la certezza di dipendere in tutto e per tutto da te? Quello che ora ho provocato qui, Jacob, mi inorridisce, mi indigna e insieme mi inonda di gioia, ma per la prima volta amo un essere umano. Ma tu non lo capisci. Va, vattene, esci di qui, maleducato. Bada che so punire ancora. Guardati da me. Ce l'avevo fatta. Tutto a un tratto rieccolo di nuovo furibondo. In un baleno mi dileguai alla vista dei suoi occhi che mi trapassavano, truci. Quelli sì che sono occhi. Gli occhi del signor direttore. Devo notare che possiedo una sveltezza incredibile a svignarmela da un locale. Sono letteralmente volato, no, soffiato via, come un fischio di vento, dall'ufficio appena colui mi disse «Guardati da me». Oh sì, a volte c'è proprio da averne paura. Mi sembrerebbe scorretto se non conoscessi la paura, perché allora non avrei neanche il coraggio, che non è altro, appunto, se non il superamento della paura. Anche stavolta, uscito nel corridoio, mi posi in ascolto al buco della chiave e anche stavolta regnò il silenzio. Tirai perfino fuori la lingua in un tipico gesto da scolaretto scimunito e poi mi venne da ridere. Non ho mai riso tanto, credo. Pian piano, naturalmente. Come risata repressa, non si poteva dar niente di più autentico. Quando rido così, beh, non c'è nulla che mi stia al di sopra. Allora, quanto a capire e a dominarmi, sono qualcosa di insuperabile. In momenti come questi sono semplicemente grande. Sì, è così. Sono ancora all'Istituto Beniamente. Ancora devo temere i precetti che qui vigono. Ancora ci vengono impartite lezioni. Ci vengono poste domande e noi vi rispondiamo. Ancora scattiamo tutti a comando e ogni mattina Kraus continua ancora a bussare col suo arcigno. Alzati, Jacob, e col dito rabbiosamente arcuato alla porta della mia camera. Ancora noi allievi diciamo buongiorno signorina quando lei appare e buonanotte quando a sera si ritira nelle sue stanze. Continuiamo a essere presi tra i ferri e artigli di una quantità di regolamenti e ci dedichiamo senza sosta a ripetizioni pedantesche, monotone. Finalmente, però, sono entrato nei veri e propri appartamenti interni. E ora devo dire che questi appartamenti non ci sono affatto. Due stanze in tutto, ma senza nessun aspetto di particolari comodità. L'arredo è quanto si può immaginare di più economico e banale, e non vi si trova nulla di misterioso. Strano. Come possa aver concepito la folle idea che i Beniamenta vivessero in appartamenti? Oppure sognavo e adesso il sogno è svanito? Sì, ci sono dei pesci rossi e io e Kraus abbiamo l'incombenza di svuotare regolarmente la vasca in cui quelle bestie nuotano e vivono per poi ripulirla e riempirla d'acqua fresca. Ma c'è qualcosa di anche lontanamente magico in questo? Qualunque media famiglia di funzionario prussiano possiede dei pesci rossi, e in famiglie del genere non c'è traccia di incomprensibilità o di stranezze. Incredibile. E io che ero così ferreamente convinto dell'esistenza di quegli appartamenti interni. Pensavo che là, dietro quella porta, da cui sempre esce ed entra la signorina, ci fosse un visibilio di stanze o di sale, come in un castello, scale a chiocciola dalle eleganti volute, scale larghe di pietra coperte di tappeti. Ecco ciò che vedevo in spirito dietro quella semplice porta. Ci doveva essere anche un'antichissima biblioteca e corridoi, lunghi, allegri corridoi rivestiti di stuoie che nella mia immaginazione si stendevano da un capo all'altro del palazzo. Ancora un po' e con tutte le mie sciocche idee potrò costituire una società anonima per la diffusione di fantasie belle quanto inconsistenti. Di capitali, credo, ne avrò a sufficienza. Non ci sarà scarsità di fondi e di acquirenti di titoli del genere se ne trovano dovunque non sia ancora morta l'idea e la fede nel bello. Che cosa non mi immaginavo? Un parco, naturalmente. Senza parco non posso nemmeno esistere. Anche una cappella, ma strano a dirsi, non diroccata alla romantica, ma al contrario linda e restaurata. Un piccolo tempio protestante col pastore seduto a far colazione. E via di questo passo. Si pranzava, si organizzavano cacce. La sera si ballava nel salone d'onore, dalle alte pareti rivestite di legno scuro su cui spiccavano i ritratti aviti della casata. Quale casata? Qui mi metto a balbettare poiché in realtà non saprei dirlo e mi pento sinceramente di tante invenzioni e di tante fantasticherie. Vedevo anche nevicare dentro il cortile del castello, cadevano grossi fiocchi bagnati ed era di prima mattina. Sempre si trattava di buie albe invernali. Ah, e poi vedevo qualcosa di bellissimo, un portico. Ma sì, un portico. Stupendo! Tre nobili vecchie dame sedevano accanto al camino ridacchiante e scoppiettante e lavoravano all'uncinetto. Che strana fantasia non vedere più in là del punto dove si sferruzza e si ricama. Ma era proprio questo che mi incantava. Se avessi dei nemici parlerebbero di morbosità e ne trarrebbero motivo per aborrire me insieme a quei cari, gentili lavoretti. Poi c'era un'altra magnifica cena, risplendente di candele su candelabri d'argento. L'allegria conviviale scintillava, lampeggiava, cicalava. Mi immaginavo qualcosa di veramente bello. E le donne? Che donne! Una aveva l'aspetto di un'autentica principessa, e lo era anche. C'era pure un inglese. Che fruscio di vesti femminili, che ondeggiare di seni, di nudità. Nella sala da pranzo correvano profumi simili a linee serpeggianti. Lo splendore si univa alla costumatezza, il bon ton al godimento, la gioia alla squisitezza, e l'eleganza era sorretta dai nobili natali. Poi tutto si offuscò e venne dell'altro, del nuovo. Sì, vivevano davvero quegli appartamenti interni, e ora è come se me li avessero rubati. Ecco cos'è a volte la cruda realtà, un lestofante matricolato che ruba cose di cui poi non sa che farsi. Si direbbe proprio che si diverta a diffondere malinconia. Del resto, anche la malinconia mi è tanto cara, tanto, tanto preziosa, perché educa. Heinrich e Schilinski se ne sono andati. Una stretta di mano e un bel addio, poi via. Molto probabilmente per non rivederci più. Come sono brevi gli addii. Si vorrebbe dire qualcosa, ma per l'appunto si è dimenticata la frase giusta e si finisce col non dir niente o una qualunque stupidaggine. Congedare e congedarsi è semplicemente atroce. In quei momenti la vita umana riceve come uno scossone. Si sente che non si è nulla. Gli addii rapidi sono freddi, quelli lunghi sono insopportabili. E allora che fare? Ci si limita a dire qualche banalità. La signorina Beniamenta mi ha parlato in modo strano. Jacob, mi ha detto, muoio, non ti spaventare. Lascia che ti parli tranquillamente. Dimmi, come mai sei diventato il mio confidente? Fin dal principio, dal momento che sei entrato qui, ti ho trovato simpatico, fine. Non muovermi delle obiezioni falsamente sincere, te ne prego. Tu sei vanitoso. Lo sei? Sì, senti, per me è la fine. Sai tacere? Perché devi tacere su quello che ora ti dirò. Soprattutto mettitelo bene in testa. Chi non deve saper niente è il tuo direttore, mio fratello. Ma io sono perfettamente tranquilla, e anche tu lo sei, lo vedo, e manterrai la parola e terrai chiusa la bocca, lo so. C'è qualcosa che mi rode, e io sprofondo, e so in che cosa sprofondo. È tanto triste, mio caro piccolo amico, tanto triste. Suppongo che sai essere forte, vero, Jacob? Ma lo so bene che sei forte. Hai cuore tu. Kraus non sarebbe in grado di ascoltarmi fino in fondo. Trovo così bello che tu non pianga. Mi darebbe un fastidio tremendo se già ora vedessi i tuoi occhi inumidirsi. C'è tempo per questo. E tu mi stai ad ascoltare così simpaticamente. Stai a sentire la mia dolente storia come se fosse una faccenduola carina, normale, come qualcosa che semplicemente esiga attenzione, nient'altro. Così mi ascolti. Se appena ti ci metti, sei capace di condurti in maniera straordinaria. Certo, sei orgoglioso, lo sappiamo, non è vero? Zitto ora, nemmeno una sillaba. Sì, Jacob, la morte, oh che parola, è qui, alle mie spalle. E vedi, come adesso io respiro, così lei respira dietro di me il suo freddo, terribile soffio, e io cado giù, giù, sotto quel soffio. È come se mi strappasse il petto. Ti ho rattristato, rispondi. È triste questo per te? Un poco, no? Ma tu devi dimenticarlo per ora, hai inteso? Dimenticarlo. Verrò ancora da te come ho fatto oggi. E allora ti darò mie notizie. Non è vero che cercherai di dimenticarlo, ma vieni qui, lascia che ti tocchi la fronte. Sei un bravo ragazzo. Mi attirò leggermente a sé e impresse sulla mia fronte qualcosa come un alito. Quanto a toccarmi, come aveva detto, nemmeno l'ombra. Poi uscì in silenzio, abbandonandomi ai miei pensieri. Pensieri? Un corno. Mi tornò in mente che ero a corto di soldi. Questi erano i miei pensieri. Sono fatto così, rozzo e sconsiderato. E poi, la verità è che le grosse commozioni mi producono nell'animo un effetto come di freddo glaciale. Sollecitato immediatamente alla tristezza, ecco che ogni sensazione di tristezza mi abbandona. Non mi va di mentire e soprattutto di mentire di fronte a me stesso. Che senso avrebbe? Mentisco in tante altre occasioni, ma qui, di fronte a me, no. No, chi ci capisce è bravo. Io sono qui che vivo. La signorina Beniamenta dice delle cose talmente spaventose e io che l'adoro, non ho una lacrima. Sono un bruto, ecco. Ma calma, non voglio poi nemmeno denigrarmi troppo. Sono sbalordito e perciò... Bugie, tutte bugie, lo sapevo. Sapevo tutto benissimo. Lo sapevo? Ancora una bugia, non riesco a dirmi la verità. A ogni modo ubbidirò alla signorina e non farò parola della faccenda. Poterle ubbidire. Finché le ubbidisco, lei è viva.